come allora, non problemi miei. Sì, Agava, sto controllando qua. Signora, non mi metti a Radio 5, io ti ascolto bene, compagnia mia di Claudio, di Antonello e di Luca. Ciao, Luca, buonasera, ben sentito, Claudio Sparviero, 9:20 abbondante, Radio 5 perfetta. Senza nulla, gira in giro, non è una frega un cazzo di nessuno. prendi lo buono in faccia, non vai tutto se vuole ricarino però. Figurati che c'è un vespone, questo tipo qui poveraccio, da buona comune, lo lasciamo fuori tutte le donne, no? E quando sono arrivati questi, gli volevo fotte del vespone, adesso ce la metto dentro il garage. No, un mio amico quando l'altro giorno gli hanno fatto tutta la moto. Come quella che c'ha cosa? Un Burgma. Fu tutta questa plattamona, senza le gomme, tutta fasciata, perché è bello. La pagliana nelle gambe c'è il cazzo. In Italia questi stronzi qua. Perché li fanno entrare, fra, li fanno entrare perché c'è la libera. C'è la libertà. Cosa vuoi ti dire? Non facciamo soltanto e anche l'altro giorno io e mia figlia stavamo fermiti già, perché lei ha detto che mi avrebbe messo fuoco a tutti. Ma non giustamente. Io non sono razzista, lei no, che poveretto, immaginate che vanno alla chiedona, lavorava lei. Si prendono il panino, la Coca-Cola e non pagano niente. Non pagano perché non ne hanno soldi, capito? Non pagano perché non ne hanno soldi. Tante volte interviene la sicurezza, non pagano, che là poi interviene la carabinieri e non fanno un cazzo. Perché non ne hanno soldi? Non hanno niente. Sono di quelli traccioni con le persone che vivono così al Pascolo Brano con la nostra solidarietà, ma la nostra solidarietà quanto può durare? Non può durare così in eterno perché stanno correndo proprio i casini. La maggior parte dei furti, delle risse, soprattutto con questi cazzi romeni, delle risse e anche degli omicidi a volte sono coinvolti loro, quindi o ti comporti in una certa maniera che poi altrimenti ti avrei estradato all'Italia, non sei più entrato. Per carità, è un casino, là. Rumeni, negri, gatti, cinesi, in tutto quello, no, più Sardegna. Di tutti, tra l'altro, c'è proprio loro quella della Sardegna, cazzo. Anche se si prendono tutto loro, si prendono. Stiamo parlando adesso queste persone qua. Ma, questa pedaniera che c'è un abito lungo, quel megatorre, City Band, certo mi pare che sia qualche 800, 900 metri quadri, completa C. E la cattura, la gara americana. Cagnolini o cane grande. C'è un. Hai visto che a volte andiamo noi a vedere, ci sono vite eccetera, quello grande che c'è dove c'è la 25. Il doppio di quello fa, il doppio di quello ne hanno aperto un altro, che è una cosa allucinante. Dove? Si è presa lì dalla strada 1, dove c'era la. Porca miseria. Qui dove c'è l'attracco, dove c'è Donino, quello è Donino. Dove c'è andato tu e c'è Andrea, amico, lavora Andrea, dietro. Un cappanone grande grande, non so di chi era. Sarà anche 400-500 metri quadri, forse uno di più. Una cosa enorme, a due piani. Occuperei tutti i cappanoni, li occuperei. Città mercato. Città dell'abbigliamento. Cina mercato sarà. No, è città dell'abbigliamento, cazzo, è scritto in cinese. Abbigliamento, ma c'è di tutto lì, tu ci andavi, sì. Di tutto, di più, c'è di tutto, c'è dall'abbigliamento all'arredamento, l'arredamento è gasami. Guarda, di pure un mobile vendi, no? Mobili di tutto, elettrodomestici, di tutto, ti sto dicendo, è un city band, proprio città, una città immobiliare, nel vero senso della parola, cioè c'è tutto, dalle calze sino all'arredamento completo della casa, capito? Pesate così, tutto, dalla vasetta, frigoriferi, non di marca, sottomarche, tavolo, sedie, di tutto. Troppo che c'è anche il radio, puro. Se c'è più il radio, cioè, non da me, tanto il radio giapponese viene un bel, e ci riesce. Quindi, non è un problema, però dico, cazzo, ma come si faccia una grande fiale come quella di Sassari, che è un consorzio DIR, sovvenzionato alla regione e a capitale pubblico, abbia il buon senso di però io ci ho già parlato con qualcuno che conosco la a noi di quello che entra non sta tutti nuda, a noi senza cedere neanche, se niente bene, ci propone quel capannone. Noi in normale cosa vendiamo in leasing o vendiamo a col mutuo, perché il consorzio è a capitale pubblico, quindi fanno parte i comuni e la provincia. I comuni soprattutto a livello tipo Porto Torres, tipo comuni vicini, no? Quelli inferiori ai 50 km, quelli fanno parte del consorzio VIR. E il capitale chiaramente del comune dice essere della provincia. Lo sto dicendo. Però non ne frega niente, quando uno arriva lì e diciamo che c'è questo capannone, dice perfetto, ora facciamo lì, dice no, cash. E ti pagano un capannone, 200-300 mila euro, uno è un'altra razza, cosa fai? Di non ribidi? Beh, in contanti, no, 300 mila euro subito, vai, vamos. Ecco la via Pasqui, che c'è di fronte a dopo Sportissimo, quello ha comprato il locale. Ha lavorato per un po' di anni, poi l'ha chiuso per 10 giorni, 20 giorni, l'ha rifatto tutto nuovo. Pavimento, tutto anche l'arredamento, scaffali, tutto nuovo, tutto beige. C'era un ragazzo che lavorava a pavimentista, ma di tocca, ogni venerdì veniva oggi e diceva a me cash, ta ta ta ta ta. Allora, hanno aperto come dei ristoranti anche giù ad Alghero, ce ne sono un bel ristoranti, tutto grande. Negozi da tutte le parti del mondo, le truffe. Alla Maddalena negozi di cinesi, fai Alghero negozi di cinesi, fai a Caglia negozi di cinesi, è tutto pieno oramai. Non poi c'hanno la pila, lavorano, non rompono le palle, poi fanno prezzi bassi, trovi quello che vuoi, a me non tanto, perché a me piace anche molto la roba di marca, però sto dicendo, c'è gente che spende sacchi soldi, spende sacchi soldi. Purtroppo così, vabbè. Luca, ripeti. Ma con casi che ho in casa è stato. Mannaggia i chirigli. Ho registrato un programma. Tutti lì che ho perso, ho 40 ricchi. Tutti li ho persi. Affanculo a me. Siamo qua, No, mi sposto a quei due alimentatori che ci sono in lunghezza verso nella scrivania lunga, diciamo. Me li metto sotto e faccio l'altro piano di 250 440, l'alimentatore li metto sotto. Perché mi viene un bel male. Cioè mi viene un bel male, viene male quando sono al computer che devo scrivere, c'è poco spazio nella scrivania, capito? Allora mi sfrutto un po' quei due spazietti, perché altrimenti mi toccherebbe spostare ancora la scrivania, mettere l'altra piccola e non chiudere. Siamo lì a 3,50 di longo, 3,50 di radio ci sono le frane, non è che... Allora invece di mettere in lunghezza le metto nuovamente all'altezza, in modo che recupero un po' di spazio. Adesso mi metto ad adattare quel microfono, magari. Se vuoi scendere e fare il suono a casa, a Teresa, noi siamo a casa, non la lascio a parte, sono per chiacchiere. E niente, tanto domani è dall'8, perciò non proprio. Ma tu cosa fai? Non dici niente domani? Io, se cazzo cerco mi fuggono a me. C'ho ancora la febbre, vedi? Adesso ho messo la tachipirina di nuovo, 36, 37, 38, ok? Adesso mi è calata. E poi c'ho anche raffreddore, allora boh, no. Ma adesso ho riguardato a casa, tutta la settimana che faccio qua? Perché adesso così non rientro neanche. Se rientro mi vado in meglio. Io lascio sia a casa già. Ma oggi ancora no, perché... C'è ancora in corso, però magari lunedì, martedì posso trovarti. Infatti mi ha detto Ranieri, ieri ti ho chiamato al telefono, visto ce l'avevi spento. Stamattina ti ho chiamato al telefono, ce l'avevi spento, poi quando mi hai chiamato tu, io ero già per dottore. Sono andato a trovare a Gino, lo sai, l'ho messo un pochino, c'era Franco, c'erano tutti gli amici. Preso un caffè, due chiacchiere, una sigaretta e poi me ne sono salito. Infatti ti hanno fatto i saluti, dice fate come sei solo, se ne leggete in pari, no, Franco è malato, gli ha preso il male all'uccello, l'influenza all'uccello ha preso. Ma c'era cosa? Francesco c'era? Poi Francesco, Franco, tutti c'erano. E gli ha detto, è morendo, ha detto gli altri. Io. Ma tre, quattro, mi dico qua, fammi rimedire, ma non si avvara, si è impressato, si avvara. Se lo telefonato, ho detto, non rispondere a me Franco, vuol dire che non stava bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso la prossima domenica, mi ha detto, giù a scendere, te lo fa bene. Neanche lui c'è la pescare stamattina, perché non fa bene neanche lui, è come te. E come te, solo le due, è già una settimana prima di te, quindi è in fase di, insomma, di chiusura di questa influenza maledetta. E stamattina è uscita, però ieri era tutto il giorno a casa. E questa di merda, questa. Prima ti prende la tosse, dopo ti passa la tosse, i dolori, tutta le ossa, i muscoli, tutto un altro ti va a dimiglia. E perché dopo comincia a raffreddore? Io andavo a prendere, lì c'era un mercato, c'era una signora con la tosse. E invece praticamente mi sono avvicinato e mi ha contagiato questa qua a me. Perché poi me ne sono andato, oggi sono arrivato a casa e cominciavo a mettere freddo. Mi sono andato la febbre alta, ciao, tosse, non l'ho detto, pizzicato giù. Ma infatti il problema è quello, perché non sono passato a trovarti. Perché è un casino. Può prendere subito, abbiamo parlato, non è che sta lì, è un'influenza molto particolare dove aggredisce soprattutto batteri e quindi ti intasa immediatamente. Va bene, ma ora è nei primi, tipo in settimana già ci vediamo, se sei a casa già posso trovarti, se non c'è problema. Lui Ariel. Tu cazzo non puoi rimondezza, ma... Mondessa. Bello. Tutta la Mondessa, sì, tutto. No. sta la faccia con la pulizia che ti ho detto. Io l'ho fatto quel lavoro là, Luca, Teresa, se è... No, portare via, avrei fatto tutta la scrivania, beh, da ridere la Cina. La tua, non basta con quel piano che ti ho detto io, sarebbe stata una canonata. Però, tieni conto di una signatura qua, copiate. Poi puoi scioccare la matta per la caleona. Lo so, è un casino. Faccio così, cerco di stringermi il più possibile, come sto facendo, e ciccia, ne cosa girerò. Brava, brava. Ho parlato un microfono all'MC60, cioè la, il microfono Kingfoot. Ah, allora, quello di plan, quello normale però. Tutti fasciati. Esatto, non me lo dire. Ma l'MC43? L'MC43 si è rotto, la carcassa si è sbarcata, vaffanculo. Cazzo, vediamo una cosa allucinante, sì. Vabbè, già ce l'ho uno io. No, ma la carcassa sola è rotta, il resto è tutto buono, si è rotto, lo sai dove? Dove c'è l'upidano, quella roba lì, lì si è spaccato, è tutto più debole, vedi? Dove c'è l'upidano? Ah, capito. Vabbè. Allora, non lo date più l'upidano? No, ma è rotta la carcassa, allora lo date più, allora provo con l'acqua, anche se riesco a rincollarlo. Thank you. di vecchiaia, ci aveva quasi 100 anni, 98, di insufficienza respiratoria, chiamiamola così, ma niente particolare, cioè di malattie non ha mai avuto niente, nonno. Poi fumava il sigaro, beveva il suo litrotto di vino, non ha mai avuto problemi. E non lo sentiva male, nel senso che aveva un pochino di roccedine, queste cose così. Capone come noi, una spirina, quella, e noi ci facciamo una tazza di vino bianco e vamos. Cava, questo è il microfono normale, bene, sta funzionando. Una grande. Quindi non l'ha, me ne ha fatto molto, esatto. E l'ho incollato, già, vabbè, già visto che funziona. Funziona benissimo. Ciao raga, vediamo un po' se c'è Antorello, Popugno. Ah. Mi parlavano Eloisci, lì c'ha provato a farlo. Mezza cartuccia, ci sì. E la bonietta. La Valieri, sta facendo una guglia a casa sua, a casa della madre. No, io piano piano mi sto spostando la tua radio, sto cercando di controllare, di vedere, se mi rompo le palle, se non ho spazio, perché adesso l'ho messo in linea, praticamente 4.30, sia 80, altri 2.50, 4.40, l'alimentatore sotto, e mi avanza ancora l'altro alimentatore, la colonnina, l'altro 140 e l'altra radio della Piemonte, poi ci sono quelli della ICOM e non ho più spazio, devo per forza scendere giù e portarne su l'altro pezzo che va sopra in modo da fare l'altro piano, sono nella merda. Però non ci stanno così. Ci fanno fare le vite, cazzo, arrivano alla porta, come fai? Non ci stanno tutti lungo, sono grandi, sono radio grande, non sono baracchinetti. L'unico piccolo è il 706, della ICOM, il quadribanda, quello è consistente, lo puoi mettere in mezzo anche tra una radio e l'altra, per dire sono fatti 250, però gli altri non ce ne sta a fare, cioè sono tutte radio da 40 per 20 alte, come fai? Sono due, quattro, sì, sono sì uguali, come ne dire poi. Io due alimentatori che sono da 20 per 10, non so, 20, 30 per 10, è un casino. Adesso vediamo fra l'arco della serata, adesso lascio stare così, li ho spostati, li ho allineati, nell'arco della serata vediamo cosa mi nasce in testa. Vediamo cosa mi nasce in testa, se no devo per forza scendere giù e prendere il coso, l'altro pezzo che è della scrivania, praticamente sono parco, diciamo. Ciao raga, faccio sentire un microfono e poi mi ci come esce. Sono qua. Senti questo microfono, com'è? Va bene? Ora. Posso aumentarlo, Aspetta, Guarda quanto è sensibile, Vabbè, ma è normale. Guarda, è questo. Questo è un preamplificato che c'avevo lì nel cassetto. Vabbè. E adesso diciamo che ce l'ho... Ma minimo, ma posso ancora aumentare di amplificazione, capito? Bene? Sì, se vuoi morire il microfono, gli andando, sì, va bene, però non c'è problema. Ottimo per la truppa. Poi si può andare a pregare con questo, capito? E fai casino con questo, Anche non si può fare così. Niente. cuore. Ma io non ti ho mai capito, ma cos'è il sacco? Una cosa che l'hai attaccato, tu cos'è? Se te la spiego io, c'avevo una sveglia, non è quelle sveglie con questo rumore, e l'ho adattata al microfono, capito? Così qua, cioè il pulsante che metto, sposto la leva, ma si sente? No, ma che? Ed è al minimo, se lo aumenta ancora di più, guarda, fa un casino, in tutti i canali la senti. Vabbè, ma già si sente, non è un problema quello. Gava Gava, questo è il 68, questo sto scendendo in questo momento. L'ala 68? Questo è l'ala 68, cosa c'era in macchina? Vabbè. Sì, a voi va bene. Ce l'è in avanza, vai Gava. Siamo ben sensibile al microfono. Qua. Adesso, no, qua, la preamplificazione ce l'ho a 1, a 2, 3, guarda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così la manetta, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, si assomiglia un po' al microfono, insomma, non è tanto... E diciamo che non è un gran microfono. Vabbè. Sì, andar bene va bene. Vabbè, è un microfono di 13 di seguito, Questo è un F22. F22. Io non ho un F22. Ma c'è seguito. Chi è F22 famoso? Chi c'è un microfono ha fatto la guerra? Io sono il microfono, però già va bene, dai. Già andar bene, veda, come dico, cava cava. Adesso lo faccio scaldare un po', se no si arruinerà, vai. E poi c'è il Ruggi, lo stesso, l'altro ho sentito la bip. E qual è l'altro? Un altro apparecchio. Adesso faccio sentire un altro apparecchio, guarda, inserito. K. ictus. Lascia perdere le salsicce che fanno la cotta. E vai la cotta? comunque qua ci stanno questi amicacci che lavorano insieme nelle campagne vicino a Salvatore sul 40, ogni tanto entrano a, si fanno una chiacchierata tra di loro, là, si mettono in questo canale per non disturbare a nessuno, ma voi tranquillo che state facendo solamente piacere, non disturbando, dai. Riprendetemela che continuo a ordinarmi qua, rimango in ascolto io, dai, io rimango in ascolto, ciao a tutti. Ma i canali sono di tutti, quindi che loro ci mettano, purtroppo noi ci siamo, oggi va. Poi ci fa domanda, ok, ciao Luigi, ciao Antonico, bentrato, collega di Salvatore, buonasera, qua con lo Spargliero da Sassari, in compagnia di Franco California, Luca, eccetera, eccetera, avanti Luca. Ciao, facciamo l'amico di Salvatore, saluto, mi ha sentito, vai fra. Ciao Salvatore, ciao, anche a Luigi Vulcano, ce la riascolta le prossime, ciao ciao, vai fra. Forse dovrebbe la soluzione fra, adesso vediamo un po' qua la situation, se riesco a mettere a posto bene il sistema, l'abbiamo trovato, ho spostato un po', ne siamo arrivati al dunque, ci troveremo, se no pazienza. Piano piano piano si paga tutto, vai lo carriello. Aspetta, se lo sto recuperando la password, fra, aspetta. Vai, fai, dai, già sono qua io, ma lontano un attimino che sto facendo qua. Casino, se mi tocca qua. Cosa ti tocca qua, tutti mi pare, ma fa spazio, ma che è, se mi chiama? Sto abuso un attimo, hai chiamato Claudio, guarda, fatti pure anch'io, mi intendi? Addirittura. Vai, che? Sembra coniazione. Ci metto l'altra sopra, vediamo se... Mi piace che a me non è solo un problema dello spazio, non è di piatti come estetica. Allora, se vado a modo mio, se vado a modo mio non posso mangiare la legge, fuori a volte. Dove fuori da te, dal canerotto col cane? No, quello di Rita che è giù, da giardino. Ma se vengono soli, quello dove è già a volte, ma di Rita. Adesso metto gli altri due nel cartolino, vediamo un po' di tirare le cose. Sarebbe tipicamente come misura, diciamo, potrebbe anche andar bene, non c'è bisogno neanche di salirne il piano. Ora vediamo, facendo il piano. Comunque sono qua, sono qua, un uovo da 9. Adesso riesco ad adattarlo, penso di sì comunque. No, l'ho pidato, tanto non mi interessa. Cosa cambia il canale non mi interessa. Lo elimino a quello. Ti ho mandato il microfono. Tu puoi... E me la tutti i CTB, lo fidano, lo pitrite. L'importante è che non sbagli il contatto di alimentazione, perché se sbagli il contatto di alimentazione ci rimettiamo il microfono. No, vai tranquillo, già. Poi quando l'ha dato, lo faccio sentire, là. Sono qua io, non c'è problema. E come dico, come esce questo microfono? Esce la fila. Ciao! Se non riesci a come una nuova conica. Adesso metto un gommino sotto qua, perché questo è più basso, che è giramento di balle. Devo adattare su Luis, non mi pare che adatto sul 68. 68? Il 68 non sarà per lo 68. Non si può adattare. Se ti sto dicendo che c'ha, che ha transito, come fai ad adattarlo? Come fai ad alimentarlo? Se tu non hai fatto la radio, è meglio la scollego l'alimentazione della, del coso, no? Però va, ma stai attento, che potrebbe essere un casino, non lo so, vedi tu, fai te e camomilla. Vai tranquillo. Thank you. scivolo un attimo. Però non è che chiedere più di tanto. Idem, idem. devo comprare comunque, sta cosa. Quelle piccoline mangiano lì. Cazzo, mangiano dei cucchini. Claudio, non è buono, fare il punto, grazie, un po' gazzetto. l'ho assaggiata e c'è un po' di mezzo. Due anni fa è un po' accetto, ma già non l'ho perso io, no? Quello che sono messo in bottiglia quando faccio le... c'è un po' di cose d'accetto, ma appena appena, però è secco. Quando faccio le salsicce, quello lo metto in mezzo. E c'è una gazzosa di assicurare? Che è una gazzosa? No, ma non si sente troppo il punto qua. Vede che è rosso, bello, ma bianco voglio dire, mi... però ma non si fare il punto la figliare, c'è di due anni fa che vuol grosso, l'ha vinto. Però già è come già la doppia a cucinare, la doppia per le salsicce io, questo qua. Gappa gappa, già va bene allora. Alla grande, alla grande. Me ne sono capizzato, se no non è diventata zitto. Beh, sicuramente no, eh. Ero tutto Ti smetto, allora, brutto un bit. Sicuramente l'antibiotico, perché l'antibiotico era un bel forte, capito? Poi non ho mangiato niente, perché non c'era un attimo da mangiare, ho preso quello lì a macchia e vado. Antibiotico, estigai. Può far bene, ma può anche creare sonnolenza, avere fastidi, eccetera, eccetera. Ce l'ho buttata la bombessa. No, cosa vai? Glielo dico, vado, vado. E mi hanno fatto dormire con gli antibiotici. Secondo fisico, capito? Ma dice quello che c'è il fisico, non ricordo di nulla, trovo il fisico più debole e gli fa quell'effetto. Ciao capa, adesso domani vado, faccio fare il certificato, sono ancora, lo sai, no, basta, ho fatto 20 miglia, mi ho consumato già una decina di pacchi. Credo, non c'è una mano. Va, non ne posso più. Adesso, questa mattina mi ha fatto tardi che era al lavoro, è finito. Thank you. quindi no, non voglio ricadirci, capito? Se questo è bene, se vuoi, tu punti a capo, non chiedo. Infatti non ho tutti gli anni, dove mi dovrà più seguire, se mi seguire già ricaduto è peggio, non è l'influenza proprio. Mi ricordo mai la poi TV, accendo la radio, lascio accesa, ascolto, a ma come sono che tu. Infatti, se qualcosa sì. No, io stesso un prezzo, la faccio una favoletta. Niente particolare, ma solo ci guardiamo le partite fra un po'. Ci guardiamo le partite, a voi anche ci avevi. Cosa ne ho fatto? Cava, cava. 4-3 qui c'è il mio Milano. A Luciano, a Milano, tre gol ha fatto. E lui lì. Magari a me ne guarda il Bruno Cacca. Tutta la settimana. Sassari. Ecco, a questo show è un bel casino. Un bel casino, comunque. Ma fa fare la cura giusta già, non c'è problemi. Ia. Ma io un attimo che l'ho buttato via perché troppo forte, che a metà l'ho ammazzato. No, ma glielo dico, tanto di venire qua domani mattina. Ma dico, guarda che con l'antibiotico mi faceva dormire. Ma l'antibiotico così mi fa anche le vere, dice, certo. Ma sono mezza la va, quindi. Sono mezza di tantassi luci, però. Infatti, quando prendi l'antibiotico, dice la casa. Sai che porta la sonnolenza, un antibiotico andare a travagliare, a guidare. Un antifiammatorio va bene, ma un antibiotico... Tappa gappa, andar bene vela. Lascia vedere una cosa. Stavo guardando le istruzioni di questi apparecchi, ma detto che non devi uscire, fuori pure dalla LC. Buonasera, come sta arrivando con l'FR di Alfa Lima? Vabbè. storia è meglio di questa. Stessi i microfoni. Aspetta, piazza nella cantina, nella traga bisugna. quello di Antonello c'è forte, da una alta. Sì, c'è forte. Alla grande, esce un po' bene. Sta arrivando per 5 qua, quarantennino, la te lo do, sono prestissimo per quella zona lì. Un attimo, dite, ha saltato Luca poco fa, l'hai sentito? Mondi, ora tu devi parlare, se non parli come facciamo a sentirti? chiusetta, mi senti? Una pregata volta non mi sentivi, poi qua c'è un rumore di guerra, non so. Io ti sento segnale, non è mai a radio 1, basso, basso, basso. Non ti sento, dai. Ciao, parlo oggi, dai. Ma non te la vuoi che l'attenda, non c'è mai. Sì, ah. Ciao, ciao, ciao. per Radio 5, sta arrivando. Sta arrivando benissimo. Grazie. Sembrava. Mira, Claudio, Claudio. Mira Claudio, saluta Claudio. Comandante, ma saluta Claudio. Lo saluti. Saluta Claudio, ciao. Io ciao Claudio. Dio, vado a farmi un segnale, facciamo un controllo, dite, facciamo un controllo, sentiamo la radio, ma te la lo smette. Facciamo le orecchie. Via, aspetta, ringrazia. E via, via. Meno male lui, perché è già. È una buona ammazzare. Che bagalla. Come dice una cigana, no? Lo squercio un po'. Allora.